Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea e là si tratteneva con loro e battezzava. Anche Giovanni battezzava. Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni. Andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbi, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui. Giovanni rispose: Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: Non sono il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amica dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io invece diminuire. Siamo nel Vangelo di Giovanni e abbiamo visto che adesso Gesù anche è contornato dai discepoli. Prima c'era Giovanni il Battista, detto così il Battista proprio perché battezzava, ma il battesimo di Giovanni era un battesimo di penitenza, di purificazione, non è il battesimo sacramento. E adesso vediamo Giovanni con i suoi discepoli e Gesù con altri discepoli. E Gesù anche battezzava, ma questo battesimo che Gesù sta amministrando non è il battesimo sacramento. Ancora siamo perché Gesù non è ancora morto e risorto, perché tutti i sacramenti, ricordiamolo, nascono proprio dalla passione di Cristo. Ma Gesù battezzava nel senso che anche Gesù compiva il rito di purificazione. Battezzare vuol dire immergere. Infatti, sia il Battista che Gesù immergevano nelle acque del Giordano come simbolo proprio di purificazione. L'acqua purifica e anche questo gesto di immergersi nell'acqua voleva dire il desiderio di conversione. E che cosa dicono adesso i discepoli di Giovanni? Vanno a riferire a Giovanni che Gesù è contornato da discepoli e dicono: Vedi, questo rabbi, vedi, questo Gesù praticamente ti sta spodestando. Lo avvertono dicendo che vogliono far capire a Giovanni che Gesù è considerato molto di più, riceve più stima di Giovanni stesso, ma Giovanni non si preoccupa di questo, anzi ne gioisce, è contento e dice anche: lui deve crescere, io diminuire. Giovanni è molto umile, Giovanni riconosce il suo ruolo, che è quello di fare spazio a Gesù e riconosce il suo limite e anzi la sua missione è proprio quella di indicare il maestro e di portare tutti verso il maestro. Quindi non è assolutamente invidioso del fatto che Gesù riceve più successo di lui. E che cosa ci dice questo brano? Questo brano ci dice una cosa molto importante per la nostra vita, come è importante essere umili, riconoscere i propri limiti e soprattutto come è importante, se vogliamo essere dei bravi educatori, dei bravi genitori, dei bravi leader, sapersi mettere da parte, saper fare spazio agli altri. Quanto è difficile alle volte per coloro che sono abituati per lungo tempo ad avere il comando, il potere, lasciare agli altri questo ruolo. Quante volte uno cerca di primeggiare e di portare avanti la sua missione, di portare avanti il suo ruolo con la scusa che ha più esperienza, con la scusa, con il pretesto che ha tanti anni alle spalle di lavoro e di competenza, e però non vuole lasciare il potere. Invece un bravo leader è colui che fa diventare altri leader superiori, anche superiori nei confronti di se stesso. E questa è la cosa importante, riuscire a far crescere gli altri. È Ecco, sicuramente noi dobbiamo prima di tutto far crescere Dio dentro di noi, che Lui cresca e io diminuisca, ma questo lo dobbiamo fare non solo nei riguardi di Gesù, ma anche nei riguardi delle persone di cui ci prendiamo cura. Dobbiamo volere che siano anche migliori di noi, vogliamo volere il loro bene, vogliamo tirare fuori da loro tutte le risorse possibili di cui sono capaci, perché ogni persona ha tante potenzialità e il vero leader è colui che le sa scoprire e sa farle progredire e sviluppare queste potenzialità. E allora oggi facciamoci un po' un esame, ma io sono capace di fare spazio agli altri, fare spazio ai giovani, fare spazio alle persone a cui ho insegnato per tanti anni, dare fiducia a loro. Un padre, per esempio, dovrebbe dare fiducia al proprio figlio anche nel condurre magari la propria azienda o il proprio lavoro. Ecco, cerchiamo di metterci da parte e di non voler trattenere il potere con l'orgoglio e con l'aggressività. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così. Prima di diventare un leader, il successo sta tutto nel crescere. Una volta diventati leader, invece, il successo sta nel far crescere gli altri. Buona giornata.